Capitolo 31. Una civetta indolente. Non c'è da immaginarsi che un incontro come quello che Mr. Preston aveva appena avuto con Roger Hamley potesse addolcire i rapporti che i due giovani intrattennero reciprocamente da quel momento in avanti. Prima d'allora si erano parlati appena e incontrati solo di rado. Infatti gli incarichi dell'intendente lo avevano finora trattenuto ad Esco, 16 o 17 miglia lontano da Hamley. Egli era più anziano di Roger di diversi anni, ma nel periodo che aveva trascorso nella contea, Osborne e Roger erano stati a scuola e al college. Mr. Preston era incline a non farsi piacere gli Hamley per molti ragionevoli motivi. Cinzia e Molly avevano entrambe parlato dei fratelli con familiarità, sottintendendo una notevole confidenza. I loro fiori erano stati preferiti ai suoi in occasione del ballo, e molti parlavano bene di loro. E Mr. Preston provava una gelosia istintiva, animale, e nutriva ostilità nei confronti dei giovanotti popolari. La loro posizione, per quanto poveri fossero gli Hamley, era molto più alta della sua nella contea. E inoltre egli era l'amministratore del signor progressista, i cui interessi politici erano diametralmente opposti a quelli del vecchio squire conservatore. Non che Lord Kemnor si preoccupasse personalmente delle proprie tendenze politiche. La sua famiglia aveva ereditato proprietà e titolo dai Whig ai tempi della successione degli Hanover e così, per tradizione, egli era un progressista e sin dalla giovinezza aveva fatto parte di un club di progressisti dove aveva perso considerevoli somme di denaro a beneficio di giocatori progressisti. E se Lord Hollingford, con i suoi interessi progressisti, non fosse stato eletto nella contea, come suo padre era stato prima di lui, finché non era succeduto al titolo, è molto probabile che Lord Kemnor avrebbe considerato la Costituzione britannica in pericolo e il patriottismo dei suoi antenati ingratamente ignorato. Ma ad eccezione delle elezioni, egli non aveva intenzione di suscitare un conflitto di partito fra progressisti e conservatori. Era vissuto a Londra troppo a lungo ed era di natura troppo socievole per escludere una persona qualunque che gli andasse a genio dall'ospitalità che era sempre pronta a offrire, indipendentemente dal fatto che la gradevole conoscenza fosse un Whig, un Tory o un radicale. Ma nella contea della quale era luogotenente, l'antica distinzione partitica era ancora la formula per mezzo della quale gli uomini venivano messi alla prova ai fini di testare la loro adeguatezza ai rapporti sociali, e non solo in campagna elettorale. Se per caso un progressista si trovava al tavolo di un conservatore o viceversa, il cibo era difficile da digerire e il vino e le vivande erano criticati anziché gustati. Un matrimonio tra giovani di partiti opposti era un'alleanza quasi tanto inaudita e proibita quanto quella di Romeo e Giulietta, e naturalmente Mr. Preston non era un uomo nel cui petto questi pregiudizi potessero svanire. Essi erano per lui innanzitutto un motivo di esaltazione e inoltre richiamavano tutti i suoi talenti per l'intrigo a beneficio del partito con cui si era alleato. Oltre a ciò, egli considerava lealtà verso il suo datore di lavoro sbaragliare gli avversari con ogni mezzo in suo potere. Aveva sempre odiato e detestato i conservatori in generale e dopo quel colloquio sul fondo paludoso di fronte al cottage di Silas detestava gli Hamley e Roger in special modo, con un astio particolare di prima scelta. Quel moralista, come sempre l'avrebbe definito da quel momento in poi, me la pagherà, si disse a mo' di consolazione quando padre e figlio se ne andarono. Che zotticone, aggiunse guardando la figura che si allontanava. Il vecchio due volte il suo fegato, mentre lo squire strattonava le redini. La vecchia cavalla se la caverà meglio senza essere accompagnata, mio bel Tomo. Ma comprendo il tuo accorgimento. Hai paura che tuo padre si giri e si infuri di nuovo. La posizione, come no, pezzente d'uno squire, uno che ha licenziato i suoi uomini proprio prima dell'inverno a marcire, a morire di fame per quanto interessava lui, tipico di un vecchio crudele Tory. E con il pretesto di simpatizzare con i lavoranti privati del suo incarico, Mr. Preston indugiò nel suo privato rancore con estremo piacere. Mr. Preston aveva molti motivi per essere contento, poteva dimenticare quella sconfitta, come scelse di fare, nel ricordo dell'aumento del suo reddito e della popolarità di cui godeva nella sua nuova residenza. Tuttavia, Hollingford si fece avanti per rendere onore al nuovo intendente del conte. Mr. Shepshanks era stato uno scapolo acido e scontroso che frequentava le locande nei giorni di mercato. Non disdegnava di offrire il pasto a 3 o 4 amici o familiari scelti, con cui in cambio ogni tanto cenava, mantenendo anche un'amichevole rivalità in fatto di vini. Però non apprezzava la compagnia femminile, come disse elegantemente Miss Browning per descrivere la reticenza dell'uomo ad accettare gli inviti delle signore di Hollingford. Egli era abbastanza grossolano da definire questi inviti, in presenza dei suddetti amici più stretti, quel tormento di vecchie. Ma naturalmente costoro non lo vennero mai a sapere. Bigliettini ricavati dal quarto di un foglio senza busta, questa invenzione era ignota a quei tempi, ma sigillati agli angoli una volta ripiegati, anziché fissati con la gomma come al giorno d'oggi, passavano occasionalmente tra Mr. Shepshanks e le signorine Browning, Mrs. Goodenough o altre persone. Da principio la loro forma era: Miss Browning e sua sorella, Miss Phoebe Browning, presentano i loro rispettosi omaggi a Mr. Shepshanks e intendono informarlo che alcuni amici hanno gentilmente acconsentito a offrire la loro compagnia per il tè giovedì prossimo. Miss Browning e Miss Phoebe sarebbero molto liete se Mr. Shepshanks volesse unirsi al loro piccolo gruppo. E veniamo a Mrs. Goodenough. I rispetti di Mrs. Goodenough a Mr. Shepshanks e spera che sia in buona salute. Sarebbe molto lieta se gli volesse essere così cortese da presenziare al suo tè lunedì. Mia figlia, che vive nel Camembert, mi ha mandato una coppia di faraone e Mrs. Goodenough spera che Mr. Shepshanks si fermerà per una piccola cena. Non c'era bisogno di specificare le date o i giorni del mese. Le buone donne avrebbero pensato che il mondo stava per finire se l'invito fosse stato spedito una settimana prima della festicciola costi nominata. Ma neanche una cena a base di faraona riuscì a tentare Mr. Shepshanks. Egli ricordava le misture che aveva assaggiato in passato ai ricevimenti di Hollingford e rabbrividiva. Pane e formaggio con un bicchiere di birra amara o un po' di brandy con acqua, consumati indossando i suoi vecchi vestiti, che si erano logorati assumendo forme larghe e comode e odoravano intensamente di tabacco. Erano cose che gli preferiva alla faraona arrostita e al vino di betulla, anche senza considerare la giacca rigida e disagevole, il fazzoletto legato intorno al collo e le scarpe strette. Così, l'ex intendente era stato raramente o mai visto ai tè di Hollingford. Probabilmente si era preconfezionato il messaggio di rifiuto, perché la risposta era invariabilmente la stessa. Gli omaggi di Mr. Shepshanks a Miss Browning e sorella, o a Mrs. Goodenough o ad altri, a seconda dei casi. Un impegno molto importante gli impedisce di approfittare del loro gentile invito, per il quale egli prega di accettare i suoi più sentiti ringraziamenti. Ma ora che Mr. Preston aveva preso il suo posto ed era venuto a vivere a Hollingford, le cose erano cambiate. Lui accettava ogni cortesia a destra e a manca e di conseguenza si accattivava alla buona opinione della gente. Furono organizzate feste in suo onore, come se fosse una sposa, come ebbe a dire Miss Phoebe Browning, ed egli partecipò a tutte. «Cosa va cercando quell'uomo?» si chiese Mr. Shepshanks, quando apprese dell'affabilità, della cordialità, dell'amabilità e di una serie di altre gradevoli lità del suo successore dagli amici che il vecchio intendente aveva ancora a Hollingford. «Preston non è un tipo da esporsi per niente, è astuto, sarà in cerca di qualcosa di più solido della popolarità». Il sagace anziano scapolo aveva ragione. Mr. Preston era in cerca di qualcosa di più della semplice popolarità. Infatti, andava ovunque avesse la possibilità di incontrare Cinzia Kirkpatrick. Forse lo spirito di Molly era più depresso del solito in questo periodo, o forse Cinzia esultava inconsapevolmente per la quantità di attenzione e ammirazione che riceveva da Roger di giorno e da Mr. Preston la sera. Sta di fatto che le due ragazze sembravano essere di umore molto diverso. Molly era sempre gentile ma molto seria e silenziosa. Cinzia, al contrario, era garrula, costantemente impegnata in motti giocosi e quasi mai muta. Quando era appena arrivata a Hollingford, una delle sue grandi fascinazioni era stata quella di essere una graziosa ascoltatrice. Ora la sua concitazione, da qualunque cosa fosse causata, la rendeva troppo inquieta per trattenere la lingua. Eppure ciò che diceva era troppo bello, troppo arguto per non risultare un'interruzione frizzante e vincente, accolta con entusiasmo da coloro che erano soggetti alla sua influenza. Mr. Gibson fu l'unico ad accorgersi del cambiamento e a rifletterci su. «È soggetta a una specie di febbre mentale», pensò. «È molto affascinante, ma non la capisco affatto». Se Molly non fosse stata così totalmente leale verso la sua amica, avrebbe reputato un po' stancante questa costante brillantezza, sprigionata nella vita di ogni giorno. Non era come la quiete assolata di un placido lago, ma piuttosto come lo scintillio delle schegge di uno specchio infranto che confonde e disorienta. In quel momento Cinzia non parlava con tranquillità di niente, argomenti di riflessione o di conversazione sembravano aver perduto il loro valore. C'erano eccezioni a questo suo comportamento e allora lei sprofondava in intensi silenzi che sarebbero stati cupi se non fosse stato per l'immutabile dolcezza del suo carattere. Se c'era una qualche gentilezza da rendere a Mr. Gibson o a Molly, Cinzia era pronta come sempre a occuparsene. Ne rifiutava di fare ciò che la madre desiderava, per quanto mutevole potesse essere l'umore che aveva suscitato la richiesta. Ma in quest'ultimo caso gli occhi di Cinzia non erano illuminati dal cuore. Molly era abbattuta e non sapeva perché. Cinzia si era un po' allontanata, la matrigna era capricciosa e se Cinzia la irritava, soffocava Molly di piccole gentilezze e di pseudoaffetto. Oppure andava tutto male, il mondo girava per il verso sbagliato e Molly aveva fallito nella sua missione di rimetterlo a posto e allora doveva essere rimproverata. Ma Molly era di disposizione troppo costante per lasciarsi turbare più di tanto dalla volubilità di una persona irragionevole. Poteva esserne infastidita o seccata, ma non si sarebbe abbattuta per questo. Non era questo il punto. La vera causa era certamente un'altra. Che Roger fosse attratto da Cinzia e la cercasse spontaneamente era stato doloroso e sconcertante per il cuore di Molly, ma si trattava di un'attrazione schietta, del tipo che Molly avrebbe riconosciuto nella sua umiltà e nella sua forte capacità di amare come la cosa più naturale del mondo. Osservava la grazia e la bellezza di Cinzia e sentiva che erano irresistibili. E quando assisteva a tutti questi piccoli segni di onesta devozione che Roger faticava a nascondere, ella pensava con un sospiro che di certo nessuna ragazza avrebbe potuto evitare di cedere il proprio cuore alla custodia tenera e forte che il carattere di Roger garantiva. Sarebbe stata disposta a tagliarsi la mano destra, se ce ne fosse stato bisogno, per assecondare il suo attaccamento a Cinzia. Il sacrificio personale avrebbe aggiunto uno strano sapore a una felice crisi. Era furiosa con quella che considerava l'ottusità di Mrs. Gibson di fronte a tanta bontà e a tanto valore, e quando ella definiva Roger uno zoticone o usava altri epiteti spregiativi, Molly si dava un pizzicotto per starsene zitta. Ma dopotutto quelli erano giorni pacifici rispetto al presente, quando la ragazza, vedendo il rovescio dell'arazzo, come sono soliti fare coloro che condividono la casa con una persona dedita alle trame, si rese conto che Mrs. Gibson aveva completamente cambiato atteggiamento nei confronti di Roger e per una ragione che a Molly era del tutto ignota. Il giovane però era sempre esattamente lo stesso, costante come il vecchio tempo, come diceva Mrs. Gibson, con la sua usuale originalità. Una roccia di forza sotto la cui ombra si trova il riposo, come aveva detto di lui una volta Mrs. Hamley. Perciò la causa del diverso comportamento di Mrs. Gibson non dipendeva da Roger, se non che adesso lui era certo di essere il benvenuto a qualunque ora del giorno. Fu giocosamente redarguito per aver preso troppo alla lettera le parole di Mrs. Gibson e per il fatto di non arrivare mai prima di pranzo. Egli però ribatté che considerava valide le ragioni di quelle obiezioni e che le avrebbe rispettate. Fu spinto a questo dalla sua semplicità, senza alcuna sfumatura di malizia. Poi, nella conversazione familiare e domestiche, Mrs. Gibson continuava a progettare modi per far incontrare Roger e Cinzia, tradendo così palesemente il desiderio che si arrivasse a un fidanzamento che Molly si incollerì per questa rete, stesa alla luce del sole e per la cecità di Roger, che gli rendeva così facile cadere nella trappola. Allora dimenticò le precedenti intenzioni di lui, le sue passate dimostrazioni di attaccamento maschile nei confronti di Cinzia. Vide solamente le trame delle quali egli era vittima e di cui Cinzia era l'esca consapevole, benché passiva. Molly sapeva che lei non si sarebbe comportata come Cinzia, no, neanche per conquistare l'amore di Roger. Cinzia percepiva e notava, tanto quanto Molly, l'ordito che veniva intessuto in casa. Però si sottometteva al ruolo che le era stato assegnato. Di certo ella recitava questa parte senza rendersene conto. Le azioni prescritte erano quelle che avrebbero compiuto, naturalmente, ma proprio poiché erano preordinate, solo tramite sottintese, è vero, Molly da parte sua avrebbe opposto resistenza. Sarebbe uscita, per esempio, quando ci si aspettava che rimanesse a casa, o si sarebbe fermata in giardino quando era stata pianificata una lunga passeggiata in campagna. Alla fine, giacché non poteva evitare di voler bene a Cinzia, qualsiasi fossero le circostanze, ella risolse di credere che Cinzia fosse completamente ignara di tutto. Ma le ci volle uno sforzo per indursi a convincersene. Può essere piacevole divertirsi con Amarillide nell'ombra o con le trecce dei capelli di Nearia, ma i giovanotti, al principio della loro vita indipendente, hanno molte altre occupazioni con cui impiegare il loro tempo e i loro pensieri in questa prosaica Inghilterra. Roger era un fellow al Trinity e dall'esterno sembrava sicuramente che la sua posizione, finché gli decidesse di restare scapolo, fosse molto comoda. Il suo carattere però non era di quelli che riposassero ingloriosamente sugli allori, per quanto il denaro della borsa di studio fosse a sua disposizione. Egli ambiva a un'esistenza attiva, in quale direzione non l'aveva ancora determinato. Conosceva i propri talenti e i propri gusti e non voleva né seppellire i primi né trascurare o ostacolare i secondi, che egli reputava dei doni e che lo rendevano adeguato per lavori molto particolari. Preferiva aspettare un obiettivo e, quando l'avesse visto con chiarezza, assicurare tutta la propria energia per raggiungerlo. Metteva da parte abbastanza soldi per i propri bisogni personali, che erano esigui, e per crearsi una pronta disponibilità a beneficio di qualsiasi progetto gli potesse sembrare opportuno intraprendere. Il resto della sua rendita apparteneva a Osborne e veniva offerta e accettata con lo spirito che rendeva il legame tra questi due fratelli così raramente perfetto. Solo il pensiero di Cinzia faceva perdere l'equilibrio a Roger. Forte in qualunque altro campo per quanto riguardava lei, egli era come un bambino. Sapeva di non potersi sposare e insieme tenersi la borsa di studio. La sua intenzione era restare libero da ogni impegno o professione finché non avesse trovata una che gli andasse a genio. Perciò non esistevano prospettive immediate, per molti anni a venire in verità, di matrimonio. Eppure egli perseverava nel cercare la dolce compagnia di Cinzia, ascoltando la musica della sua voce, crogiolandosi nella luce del suo sole e nutrendo la propria passione in ogni modo possibile, proprio come un bambino irragionevole. Sapeva che era follia, però la commetteva lo stesso, e fu forse questo che lo avvicinò così tanto ai sentimenti di Osborne. Roger si spremeva le meningi per i problemi del fratello molto più di quanto facesse lo stesso Osborne, il quale per la verità era divenuto di recente così debole e sofferente che persino lo squire rispose con obiezioni davvero fiacche al suo desiderio di cambiare aria di frequente, sebbene in passato egli fosse solito mugugnare a lungo sulla spesa che questi viaggi necessariamente richiedevano. «Dopotutto, non costa così tanto», disse un giorno lo squire a Roger. «In qualunque modo si sposti, lo fa senza spendere molto. Una volta veniva a chiedermi 20, adesso gliene servono 5. Ma io e lui non capiamo più la lingua dell'altro. Ecco come stanno le cose. E il mio dizionario, lo chiamò dizionario, si è tutto confuso per colpa di quei maledetti debiti che lui non mi spiegherà mai e non ne vorrà mai parlare e mi tiene sempre a distanza quando comincio. Fa così Roger, con me, il suo vecchio papà, lui che era il beniamino di tutti quando era ragazzino». Lo squire si soffermava così tanto sul comportamento riservato che Osborne teneva con lui che rimuginare perpetuamente su quell'unico argomento lo rese più imbronciato e tetro che mai nei suoi modi con il figlio. E per di più egli provava dispiacere a causa della mancanza della confidenza e dell'affetto che proprio così facendo respingeva. Cosicché Roger, che desiderava evitare di diventare il ricettacolo delle lamentele del padre a proposito di Osborne, e l'ascolto silenzioso di Roger era proprio il sedativo che lo squire cercava sempre, doveva spesso ricorrere alla discussione sulle opere di drenaggio come contro irritante. Lo Squire aveva sofferto acutamente per il discorso di Mr. Prestor sul licenziamento dei suoi operai. Tuttavia, quella provocazione si intonava sempre con le reprimende della sua propria coscienza, come egli continuava a ripetere a Roger infinite volte. Non potevo evitarlo. Come avrei potuto? Ero prosciugato di denaro contante. Vorrei che la terra fosse prosciugata, come sono io, diceva, con un tocco di umorismo che usciva prima che se ne rendesse conto e del quale sorrideva piuttosto mestamente. Cosa dovevo fare? Ti domando, Roger. So che ero arrabbiato. Tante cose mi hanno fatto arrabbiare e forse non ho pensato alle conseguenze come avrei dovuto quando ho dato ordine che fossero mandati via. Ma non avrei potuto fare altrimenti se ci avessi pensato per un anno intero e a sangue freddo. Conseguenze. Odio le conseguenze. Mi sono sempre state contro, sì. Sono così vincolato che non posso più tagliare un ramo e questa è una conseguenza del possedere una proprietà regolamentata in modo così diabolico. Vorrei non aver mai avuto degli antenati. Sì, ridi, ragazzo. Mi fa bene vederti ridere un po' dopo i musi lunghi di Osborne, che si fanno più lunghi quando mi vede. Sentite, padre, disse Roger all'improvviso. In qualche modo riuscirò a raccogliere il denaro per i lavori. Fidatevi di me. Datemi 2 mesi per pensarci, avrete dei soldi, comunque sia, e tanto per cominciare. Lo squire lo guardò e il suo volto si illuminò come quello di un bambino alla promessa di felicità fatagli da qualcuno su cui ci si può contare. Si fece però un po' più serio dicendo: «Ma come fai a ottenerlo? È una cosa piuttosto difficile». «Non importa, lo avrò. All'inizio un centinaio circa. Adesso non lo so ancora, ma ricordate, padre, io sono un senior Wrangler e un autore molto promettente, come mi ha definito quella rivista». Ah, non sapete che bravo ragazzo avete per figlio. Avreste dovuto leggere quella recensione per conoscere tutti i miei meravigliosi meriti. L'ho fatto, Roger. Ho sentito Gibson che ne parlava e gli ho chiesto di farmela avere. Avrei capito meglio se avessero chiamato gli animali con il loro nome inglese senza metterci tutto quel francese. Ma era una risposta a un articolo di uno scrittore francese, si difese Roger. Io l'avrei lasciato perdere, esclamò lo squire. Abbiamo dovuto sconfiggerli e ci siamo riusciti a Waterloo, ma io non mi abbasserei a rispondere a nessuna delle loro frottole se fossi in te. Però ho letto l'articolo fino in fondo. Nonostante tutto il tuo latino e il tuo francese, sì, sì, e se ne dubiti, vai a vedere alla fine del libro mastro, capovolgilo e troverai che ho copiato tutte le belle frasi che parlano di te. Attento osservatore, inglese forte e vigoroso, un filosofo in ascesa. Riesco quasi a ripetere la memoria, perché molte volte, quando sono tormentato da tremendi debiti o dai conti da pagare di Osborne, o tribolo sui rendiconti, giro il libro mastro e ci fumo sopra una pipa, mentre leggo quelle parti di recensione che parlano di te, ragazzo. Capitolo 32. Si avvicinano grandi eventi. Roger aveva riflettuto su diversi progetti che pensava gli consentissero di ottenere abbastanza denaro per lo scopo che desiderava raggiungere. Il suo oculato nonno, che era stato commerciante in città, aveva vincolato le poche migliaia di sterline che aveva lasciato alla figlia in modo tale che, sebbene in caso di sua morte prima di quella del marito, quest'ultimo potesse godere a vita degli interessi sul patrimonio, tuttavia, a seguito della dipartita di entrambi, il loro secondogenito non avrebbe ereditato la proprietà fino a che non avesse compiuto 25 anni e, se fosse morto prima di quell'età, il denaro che gli sarebbe toccato sarebbe passato invece a uno dei cugini da parte di madre. In breve, il vecchio mercante aveva preso precauzioni per quell'ascito come se questo ammontasse a decine anziché a unità di migliaia di sterline. Naturalmente Roger sarebbe potuto scampare alle maglie di questa rete assicurando la propria vita fino all'età prevista e probabilmente se avesse consultato un avvocato questo sarebbe stato il percorso che gli sarebbe stato suggerito. Ma il giovane non garbava entrare in confidenza con chi che sia a proposito del bisogno di contante di suo padre. Aveva ottenuto una copia del testamento del nonno al dottor Scammons e immaginava che tutte le contingenze che ne erano coinvolte sarebbero state chiare alla luce della natura e del buonsenso. In questo si sbagliava leggermente. Ciò non di meno, egli era risoluto sul fatto di doversi procurare in qualche modo del denaro, allo scopo di mantenere la promessa fatta a suo padre e per l'ulteriore traguardo di fornire allo squire un'occupazione quotidiana che distraesse i suoi pensieri dai rimpianti e dalle preoccupazioni che stavano quasi per delimitargli la mente. Egli era Roger Hamley, senior wrangler e fellow della Trinity, per il miglior offerente, non importa per quale tipo di onesta occupazione. E poco dopo la sua disponibilità scese a qualsiasi tipo di offerente. Un'altra perplessità e un altro motivo di disagio pesavano su Roger in quel periodo. Osborne, erede della tenuta, stava per avere un figlio. In proprietà degli Hamley, la proprietà degli Hamley era vincolata a eredi maschi dati dal legittimo matrimonio. E quel matrimonio era legittimo? Osborne non sembrava mai dubitarne, in effetti. Sembrava non pensarci affatto. E se non lo faceva lui il marito, quanto poco poteva farlo, ahimè, la devota moglie. Eppure, chissà quanta miseria avrebbero potuto gettare sul loro futuro, delle ombre di illegalità. Una sera Roger, seduto accanto al debole, incurante e ingenuo Osborne, iniziò a porgergli delle domande dettagliate a proposito delle sue nozze. Osborne sapeva per istinto dove Roger voleva andare a parare, non che egli stesso non desiderasse una perfetta legalità e giustizia nei riguardi della moglie, solo che era così indisposto in quel momento che detestava essere infastidito. La situazione somigliava un po' al ritornello della profetessa scandinava di Grey. Lasciami, lasciami riposare. Ma prova a dirmi come hai gestito la cosa. Come sei noioso, Roger, protestò Osborne. Sì, direi che lo sono. Procedi. Ti ho detto che ci ha sposati Morrison. Ti ricordi del vecchio Morrison al Trinity? Sì, il tipo più bonario e stordito che sia mai vissuto. Beh, ha preso gli ordini. E l'esame per diventare pastore lo ha talmente prostrato che ha convinto suo padre a dargli un paio di centoni per un tour sul continente. Intendeva andare a Roma perché aveva sentito che lì gli inverni sono così piacevoli. Poi in agosto è risalito attraverso Metz. Non capisco perché. E lui non più di te. Non è mai stato un genio in geografia, lo sai, e in qualche modo pensava che Metz, pronunciato alla francese, dovesse trovarsi sulla strada di Roma. Qualcuno gli aveva detto così per prenderlo in giro. In ogni caso, per me è stato un bene averlo incontrato lì, perché ero determinato a sposarmi senza perdere tempo. Ma, ahimè, è cattolica? Vero. Ma, vedi, io no. Non credi che te l'abbia fatto qualche torto, Roger? Chiese Osborne, raddrizzandosi sulla poltrona e parlando al fratello quasi con rabbia, con il volto improvvisamente rosso e abbampante. No, sono certo che non ne avevi l'intenzione, ma vedi, c'è un bambino in arrivo e questa proprietà è intitolata agli eredi maschi. Ora, io voglio sapere se il matrimonio è legale o no e mi sembra una questione delicata. Oh, fece Osborne, tornando tranquillo. Lo sai tutto qua? Immagino che sarai tu il prossimo erede maschio e di te posso fidarmi come di me stesso. Sai che il mio matrimonio è bona fide nelle intenzioni e credo che di fatto sia legale. Siamo passati da Strasburgo. Ahimè, ha preso con sé un'amica, una brava francese di mezza età, che ha fatto un po' da damigella, un po' da chaperon, e poi ci siamo recati davanti al sindaco, il prefet, come lo chiamano. Penso che Morrison si sia piuttosto goduto la bisboccia. Ho firmato in prefettura ogni genere di incartamento. Non li ho letti tutti, per paura di non poterli firmare in coscienza. Era il piano più sicuro. Ahimè, continuava a tremare, tanto che ho pensato svenisse. Dopodiché siamo andati all'ufficio del cappellano inglese più vicino, Kersrae, e il cappellano non c'era. Così Morrison ha ottenuto facilmente in prestito la cappella e ci siamo sposati il giorno successivo. Ma di certo saranno state necessarie una registrazione o una certificazione. Morrison disse che si sarebbe occupato di tutte le formalità e dovrebbe conoscere il proprio lavoro. So che l'ho ricompensato molto bene per il suo servizio. Dovete risposarvi, afferma Roger dopo una pausa. E prima che nasca il bambino, hai un certificato di matrimonio? Direi che Morrison ce l'ha, da qualche parte. Ma credo di essere sposato legalmente secondo le leggi sia inglesi che francesi. Davvero, vecchio mio. Da qualche parte ho le carte del prefè. Non è importanza. Vi risposerete di nuovo in Inghilterra. Ahimè, va alla cappella cattolica a Preston, giusto? Sì. È così devota che per niente al mondo la disturberei per quanto concerne la sua religione. Allora mi sposerete sia lì che alla chiesa della parrocchia in cui vive, dichiarò deciso Roger. È un bel po' di trambusto, un disturbo non necessario e una spesa superflua, direi, obiettò Osborne. Perché non vuoi lasciar perdere tutto? Né me né io siamo quel tipo di persone che si trasformano in canaglie e non negheremmo la legalità del nostro matrimonio. E se il bambino è un maschio e mio padre muore e io muoio, beh, sono certo che da te avrà giustizia. E sono sicuro come di me stesso, vecchio mio. Ma se per giunta morissi anch'io? Già che ci sei, immagina un'ecatombe di tutti gli Hamley viventi in una volta sola. Allora chi sarà il successore? L'erede maschio? Osborne riflette per un momento. Uno degli Hamley irlandesi, immagino. Mi pare che i ragazzi siano poveri, forse hai ragione, ma che bisogno c'è di fare presagi così tetri? La legge ci costringe a fare presagi in situazioni come questa, afferma Roger. Perciò la prossima settimana, quando sarò in città, andrò da me e preparerò tutto il necessario prima che tu arrivi. Penso che sarai più felice quando sarà tutto a posto. Sarò più felice se avrò la possibilità di vedere la mia piccola donna, questo te lo garantisco. Ma cosa ti porta in città? Vorrei avere denaro per andare in giro come fai tu, invece di stare sempre rinchiusi in questa casa vecchia e tetra. Osborne era occasionalmente incline a paragonare la propria posizione con quella di Roger in tono di lamentela, dimenticando che entrambe erano il risultato del suo carattere e anche che Roger rinunciava a una bella fetta delle proprie entrate per mantenere la moglie di suo fratello. Ma se questi ingenerosi pensieri di Osborne fossero stati sciorinati chiaramente davanti alla sua coscienza, egli si sarebbe percosso il petto e avrebbe esclamato mea culpa con estrema convinzione. Solo che era troppo indolente per tenere d'occhio la propria coscienza, lasciata così, senza aiuto alcuno. «Non avrei pensato di andarci», spiegò Roger arrossendo, «come se fosse stato accusato di spendere soldi altrui invece dei propri, se non dovessi recarmici per affari. Mi ha scritto Lord Hollingford, sa del mio grande desiderio di un impiego, e ha sentito parlare di qualcosa che considera adatto. Ecco la sua lettera, se ti va di leggerla». Ma non dice niente di definito. Osborne lesse e restituì la missiva a Roger. Dopo un momento di silenzio disse: «Perché i desideri del denaro? Stiamo prendendo troppo da te? È una grande vergogna per me, ma cosa posso fare? Devi solo suggerirmi una carriera e io la intraprenderò domani». Parlava come se Roger lo stesse rimproverando. «Mio caro, non mettermi queste idee in testa. Io devo fare qualcosa per me stesso a un certo punto e sto in allerta. Inoltre voglio che mio padre riprenda i lavori di bonifica. Farebbe un gran bene sia alla mia salute che al mio spirito. Se posso anticipare parte del denaro richiesto, tu e lui mi ripagherete gli interessi fino a che non riuscirete a restituire il capitale». «Roger, tu sei la provvidenza di questa famiglia», esclamò Osborne, colpito all'improvviso dall'ammirazione per la condotta del fratello e dimenticando di compararla con la propria. Così Roger si recò a Londra, Osborne lo seguì e per 2 o 3 settimane i Gibson non videro i due fratelli. Ma come l'onda segue l'onda, l'interesse segue l'interesse. La famiglia, come era chiamata, tornò per il soggiorno autunnale alle Torri e di nuovo la casa fu piena di visitatori e i servitori e le carrozze e le livree delle torri si fecero rivedere lungo le strade di Hollingford, proprio come era accaduto per innumerevoli autunni nel passato.